Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:08 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Come sempre comincia Il riposo del guerriero. Prima di dirvi l'argomento di oggi, è un argomento senza colore, dopo ne parliamo ovviamente, vi do i numeri, come sempre, tanto i numeri li do per tutte le due ore. Allora, gli sms 349-238-6666, i vostri messaggi, oggi dovrete sbizzarrirvi, ma sempre, tanto lo fate. Poi c'è la nostra pagina di Facebook, andate pure su Facebook e cercate Il riposo del guerriero. E poi il numero verde, perché alle 11:30, come sempre, il mistero in 24 minuti. Avete quello come tempo per risolvere questo mistero e portare a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E adesso che il Natale si avvicina, i 1000 euro sono particolarmente golosi, diciamo così, anche per fare i regali agli altri. Dovete trovare la soluzione attraverso degli indizi musicali. La soluzione può essere una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di conosciuto. E il primo indizio è questo: azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Eccolo qua, canzone molto famosa di Paolo Conte. Il numero verde, prenotatevi fin da adesso se volete, 800 24 00 24. Giochiamo alle 11:30. Azzurro è il primo indizio ed è anche un colore, è vero, perché oggi Il riposo del guerriero parla di un colore o di un non colore, chiamatelo come volete voi, il nero. E a volte vediamo nero, e a volte ci vestiamo di nero. Il nero nel cinema, il film noir ovviamente, nella letteratura, il bianco e nero, e il nero insomma si può declinare in tantissimi modi diversi. Se volete farlo anche voi, ci sono tra l'altro tantissime frasi in italiano, e vedremo anche quali, alcune delle quali ovviamente, che hanno come punto fermo il nero. E se vi viene in mente qualcosa, potete anche scriverlo con i vostri messaggi, anche perché come sempre avremo Francesca Dragotto che ci racconta la ragione dell'inserimento di questo colore in molte frasi fatte che ormai usiamo quotidianamente. E per partire ovviamente ho scelto il nero. Vedo nero, son del gatto. Perché nello stesso istante in cui Zucchero ha detto la frase me la vedo nera, disse la principessa mirando sugli specchi, è arrivato un sms con quella frase, come una sorta di karaoke, in poche parole, quello che hanno fatto sotto casa mia fino alle 5 di questa mattina, ma questo è un altro discorso. Allora, il karaoke non è l'argomento, l'argomento è il nero, e io ho scelto vedo nero perché il tema di quest'anno, anche se il nero che vede Zucchero è un altro, invece il tema del festival del quale stiamo parlando è proprio un altro. Il tema dell'anno è vedo nero, un'apocalisse ci salverà, chi lo sa. Giorgio Godetti, buona domenica. Buongiorno a voi. Eccoci qua. È geniale l'accoppiamento con Zucchero, vi sono molto grato. E ancora più di me lo sarebbe Marina Sabri, mia collega di direzione, a cui si deve l'intuizione di questo progetto quest'anno, e che effettivamente è un modo, a nostra volta, un po' divertente di precedere tutte le angosce su oddio il 2012, finisce il mondo, casca tutto per terra. Lo stiamo aspettando, certo, ma tanto ormai le date si susseguono, chi dice una, chi dice l'altra, adesso abbiamo quasi un anno di tempo per capire cosa succederà. Certo che siamo messi a posto comunque, ecco, sì, come nel certo. 1960 già si aspettò la fine del mondo, sì, a Pulmaio, sapendo che gli unici due posti in cui ci si salvava erano l'altopiano del Tibet e ovviamente il Monte Bianco. noi ci siamo già messi qui in anticipo, stiamo tranquilli che se la faccenda si ripete saremo fra i salvati. Ecco, allora Godetti, intanto spieghiamo di cosa stiamo parlando del Courmayeur Noir In Festival, che comincia domani e andrà avanti fino all'11 di questo mese. Esatto, festival di cinema, di letteratura, di televisione, di fumetti, perché no, ed anche di incroci, di cronaca, di storia, di dibattiti e possibilmente di divertimento, tutto nel segno di questa cosa chiamata nero, che una volta avremmo chiamata giallo, che poi l'avremmo chiamata mystery, che poi l'avremmo chiamata thriller. Ognuno gli ha definizione che vuole. Ma poi racconteremo anche questo, perché i gialli si chiamano gialli e non si chiamano neri, insomma, perché ci sono. È un colore che fa discutere sempre. Giorgio Godetti, ti chiedo di restare con noi, gli aggiornamenti sul traffico, e poi torniamo a sentire che cosa potrete vedere e ascoltare al Courmayeur Noir In Festival. Il riposo del guerriero. Da domani il Courmayeur Noir In Festival. Allora, Giorgio Godetti, cosa vedremo? Perché ci sono tanti film in concorso, anche fuori concorso, e anche un'anteprima particolarmente attesa, credo, dopo domani, il 6. Allora, sono curioso. Sono 15 in tutto in anteprima, più gli omaggi di retrospettiva alla televisione, i documentari e quant'altro. Si comincia domani sera, e vale la pena di dirlo, con un grande film sul crack di borsa fra 2008 e 2010, la storia delle banche d'affari americane vista dal di dentro, con Kevin Spacey che è il protagonista ed è un personaggio che proprio in una banca d'affari scopre quello che non dovrebbe scoprire e quindi capisce in anticipo come arricchirsi o no sulle spalle dei poveretti. L'anteprima attesa a cui credo alludi è quella del Dracula di Dario Argento, di sì, cui dopodomani insieme a Dario Argento scopriremo le prime immagini. Il film è una complessa operazione in tre dimensioni, in famoso 3D, per cui sarà pronto soltanto a primavera inoltrata, ma Dario e i suoi produttori hanno voluto aprire proprio le porte del loro laboratorio infernale, se vogliamo, e io sono molto molto contento, perché Dario Argento di questo festival è un po' un padre, la sala più importante delle proiezioni è a lui dedicata, e Dario Argento alle prese con Dracula è una di quelle scommesse un po' epocali, insomma, il re del brivido moderno contro l'inventore del più straordinario personaggio di tutti i tempi, Dracula il vampiro. Ecco, poi questa è una delle parti, perché poi in realtà non c'è solo il cinema, c'è anche letteratura ovviamente nel vostro tantissima festival. Sì. Oltre 20 scrittori, il premio Scerbamenco che premia ogni anno il miglior scrittore di gialli italiani del momento ovviamente, e poi il premio Chandler, che è il nostro Nobel alla carriera, se volete, quest'anno va in coppia ai due giganti del noir mediterraneo, cioè Andrea Camilleri e soprattutto in questi giorni Petros Markaris. Dico soprattutto in questi giorni perché Markaris racconta in presa diretta la crisi della Grecia, e quindi nelle vesti anche divertenti francamente del romanzo giallo, delle avventure del commissario Caritas, però noi vediamo esattamente che cos'è il rischio di default sulla pelle delle persone. Ecco, come funziona la partecipazione a questo festival, Giorgio? Si arriva, si dice dov'è che si vedono i film, basta, dov'è che si incontra così la gente, si entra, ci si accredita dicendo buongiorno, mi chiamo Giorgio Cosetti, e si vedono i film, si incontrano le persone, e come direbbero quelli che parlano forbito, sì, è un festival user friendly. Ah, ok, quindi abbiamo proprio voluto immaginare a disposizione di chi ama il divertimento, di chi ama il genere, di chi ama anche, come dire, l'intelligenza dello spettacolo. Ecco, è anche un'occasione per chi non l'avesse mai fatto di andare a visitare Courmayeur, al di là di tutto, perché la cornice, vale chiaramente, la ecco, esatto, è una cornice che vale la pena visitare sicuramente. Grazie Giorgio Codetti, direttore del Courmayeur Noir In Festival, ve lo ricordo, da domani fino all'11 dicembre, il sito noirfest.com. Grazie Giorgio. A voi, grazie anche da Marina Sabri. Buona domenica. Avete sentito, Nicoletti ha parlato di Margin Call, il film che verrà presentato domani in anteprima, un film, un thriller finanziario. Mi viene a pensare adesso un'associazione curiosa, nel senso che si tratta del Noir Film Festival e dovete pensare che il termine noir rivolto al cinema arriva proprio dopo il crollo della borsa di Wall Street, quindi in qualche modo le due cose sono correlate anche ai tempi nostri. Il film che andranno a presentare è proprio un thriller finanziario e il genere noir come termine nasce proprio in quegli anni bui, insomma, li conoscete benissimo anche perché sono tornati alla ribalta in questo periodo, lo sapete meglio di me. Allora voglio farvi ascoltare uno dei film considerati tra i più importanti di Hollywood che ha una trama anche particolarmente drammatica, considerato anche dal popolo della rete, quindi le persone che navigano in internet, che hanno votato il film noir per eccellenza. Tutto è pronto, madame. Grazie, Max. Vogliate scusarmi, signori, ma devo prepararmi per la mia scena. Che cosa succede? Ci sono notizie. Perché l'ha ucciso? Ha già confessato. Siete pronti, signori? Pronti. Pronte le luci? Eccolo. Luci! Sei pronta, Norma? Quale scena è? Dove mi trovo? Sei sullo scalone del palazzo. Oh sì, è vero. Ricordo. Andiamo, la principessa è attesa. Sono pronta. Attenzione. Motore! Azione! Così, malgrado tutto, sta girando il suo film. Il destino a volte è stranamente generoso e ha avuto compassione di Norma Desmond. Ecco, il sogno al quale s'era con tanta disperazione aggrappata, ora la culla dolcemente. Quello che parla è lo sceneggiatore che lei a un certo punto uccide, lo sceneggiatore del quale lei si innamora, e la storia è quella appunto di Norma Desmond, grande diva del cinema muto, che a un certo punto smette di lavorare, che non c'è più un mestiere per lei, considera il sonoro e il colore qualcosa di aberrante, non assolutamente recita più ma si chiude in se stessa e insomma questa è la drammatica fine con lei che scende dalla scala credendo di essere ancora una volta protagonista di un film. Salomè, se non mi sbaglio, sto parlando di Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, e era Gloria Swanson, che fra l'altro era proprio un'attrice del bianco e nero. Emanuele Costanzo, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica a tutti. Emanuele Costanzo è direttore della rivista Photo Cult e parliamo di fotografia perché il bianco e nero continua ad avere un grandissimo fascino. Tra l'altro Viale del Tramonto è un film del 1950, il colore già esisteva perché arriva alla fine degli anni 30 al cinema, come il sonoro anche, come esisteva, però il film infatti non è muto, ma viene utilizzato invece il bianco e nero ancora una volta. Emanuele, partiamo da lì. Perché grandi fotografi ancora utilizzano il bianco e nero? Beh, sarebbe facile dire che semplicemente si limitano a restare nel solco della tradizione, perché ovviamente la fotografia è nata in bianco e nero, ma in realtà non è così. C'è chi ne fa una bandiera, oserei dire, di tipo culturale, ma penso che alla base ci siano comunque dei meccanismi legati alla fisiologia e alla percezione, perché il colore può distrarre, può ubriacare, può appunto soprattutto distogliere l'attenzione dai contenuti dell'immagine, mentre il bianconero, che alla fine altro non è che una forma resa attraverso sfumature di grigio, consente all'osservatore dell'immagine, della fotografia, di concentrarsi sul messaggio che il fotografo si spera sia riuscito a introdurre nella sua fotografia. Ecco, tra le altre cose, il bianco e nero è molto difficile, sembra facile perché in realtà sono solo due colori, apparentemente, ovviamente, ci sono tutte le sfumature che vanno dal bianco al nero, appunto. Però ci si diverte oggi con la possibilità della tecnologia, del digitale. Ormai tutti fotografiamo, no? Con i telefonini, ormai tutti fotografiamo male, ma lo facciamo tutti. Una volta bisognava pensare molto di più perché la pellicola costava e quindi è lo sviluppo anche di conseguenza. Ogni foto richiedeva un pensiero, oggi molto meno. Nella gran parte della gente, sto dicendo, non certo, non sto parlando dei fotografi. E poi curiosamente, Emanuele, si usa l'opzione per far tornare in bianco e nero quella foto che racconta qualcosa di completamente nuovo a quel punto, una volta perso il colore. È così, ma guarda, sarebbe interessante se si ragionasse sul fatto che in realtà le nostre modernissime macchine digitali in realtà hanno un sensore, quello che ha sostituito la pellicola, che vede in bianco e nero. E il colore altro non è che un'invenzione generata dal computer che regola la macchina fotografica stessa, ma il fatto che ancora oggi non solo si fotografi in bianco e nero, ha anche chi utilizza il cellulare, che non demonizzerei affatto, tant'è che ci sono delle correnti di fotografi attuali che sfruttano proprio il cellulare nella sua elementarità come strumento principe, quindi non c'è spazio per grandi elaborazioni e molto spesso lavorano direttamente in bianco e nero se l'apparecchio lo consente, o appunto una volta a casa, scaricata la fotografia sul computer, eliminano l'informazione colore, lasciando esclusivamente forma. Ecco, anche appunto, perché è vero, resta la forma, e questo è interessante, perché la foto acquista più importanza e non sappiamo bene perché, è un fatto proprio di sensazione. Emanuele, il bianco e nero però mi raccontavi che dal punto di vista digitale non è mai abbastanza vicino, almeno per i puristi, a quello che si ottiene invece con lo sviluppo, diciamo, ecco, sì, classico, quello della camera oscura. Ecco sì, la stampa in camera oscura, l'emulsione, cioè la parte sensibile della carta, è fatta sostanzialmente di cristalli d'argento che non possono che avere quel colore a meno che non si introducano delle varianti nella fase di sviluppo, quindi a livello chimico. E hanno una gamma di sfumature talmente ricca che ancora oggi molti, i puristi come dicevi tu, ma devo dire anche gli amatori, quelli con un occhio appena allenato, non riescono a ritrovare nella stampa inkjet, quindi con la stampa a getto d'inchiostro degli apparecchi che sono sulle scrivanie di molti di noi. E il bello è che c'è questa rincorsa all'antico, cioè si è raggiunto un livello altissimo nella stampa del colore, ma nella stampa in bianco nero, che pur essendo quella apparentemente primitiva, non si è ancora arrivati a eguagliare la ricchezza di gamma, di toni, di sfumature che si aveva con la stampa che chiunque nel sottoscala poteva tirare fuori dalla propria camera oscura, no? Cosa che molti hanno fatto. Anche perché il fascino di vedere la propria foto apparire, devo dire, è impagabile quello. Già per chi ha vissuto le Polaroid, che in qualche modo avevano un processo chimico di quel tipo, era già una magia. Tu vedevi la tua foto apparire. Poi chiaramente quando la sviluppi tu decidi tu quanto farla apparire, e quello è un secondo lavoro, no? Perché la fotografia non è soltanto scattare, ma la fotografia è anche poi imprimere alla fine, avere il risultato, ottenere il risultato. La stampa, in particolare quella in bianco nero, era considerata, e volendolo è ancora, anche se nella camera chiara, quindi non più la camera oscura, ma nella camera chiara digitale, la stampa era ed è considerata una seconda fase fotografica, forse anche la più importante, quella che materializza, e purtroppo si sta un po' perdendo, perché tendiamo un po' tutti a stivare negli hard disk le nostre immagini e a non stamparle, e questo mette un po' a rischio il tramandarsi di generazione in generazione della memoria affidata alla fotografia, e a quella in bianco nero in particolare. Ecco, un fatto di praticità, però secondo me non si perderà mai, è un po' come il vinile che grazie al cielo comunque resta. Emanuele Costanzo, ti chiedo di restare in linea, abbiamo la pubblicità e poi torniamo ancora a parlare di fotografia in bianco e nero. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di Nero nel riposo del guerriero di oggi. Emanuele Costanzo è il direttore della rivista Fotocult, il sito è fotocult.it e stiamo parlando appunto di fotografia in bianco e nero. E, Emanuele, c'è un messaggio curioso di Giacomo che scrive: una mia cliente mi chiese, lei usa il bianco e nero perché costa meno? Ma ormai, appunto, come dicevi prima, in tempi di digitale il costo del singolo scatto è un concetto abbastanza elastico, perché scattare con... Aspetta Emanuele, ti sentiamo a scatti in questo momento. Aspetta, ti sei spostato? No, forse di un metro. Ma... Ecco, riprova, eccoci di nuovo. Va bene adesso? Sì, è il colore che si sta ribellando a noi. In questa giornata grigia dove non ce n'è qui a Roma, dove sono io. Ah, vabbè, allora, qui mi è la nebbia, stai sereno. Allora Emanuele, dicevi che appunto in fatto di digitale colore bianco e nero è il costo più o meno quello. No. Si usa dire che la fotografia sia ormai gratis, in realtà non è così, è forse la stampa, ecco. Io torno sul concetto della stampa, perché quella che dovrebbe essere appunto l'anello finale, l'anello conclusivo e forse il più gratificante, si sta perdendo. Quello sì, si sta perdendo anche perché è un po' costoso, perché le aziende, che pure stanno profondendo enormi sforzi nel creare, nel costruire, nell'offrire al pubblico stampanti in grado di fare anche il bianconero all'antica, sbagliano secondo me l'approccio, perché fanno pagare relativamente poco l'oggetto, la stampante in sé, sì. Ma poi non incentivano l'uso, perché tra i consumabili, i cosiddetti consumabili, la carta e gli inchiostri soprattutto, costano sì, anche perché balsamico invecchiato. È vero, anche perché cambiare, a volte la teschina si usa sempre la stessa, e se la si riempie di inchiostro in realtà andrebbe cambiata tutta la teschina, perché i buchini, chiamiamoli così, si otturano e quindi la stampa non è più ottimale. Vabbè, sì. Ma questo poi ci sono i negozi che fanno le ricariche che si arrabbiano, però è vero, ogni tanto la teschina va sostituita o quantomeno pulita. Io volevo parlare anche di nero da un altro punto di vista e riferirmi un po' al noir, se vogliamo, nel senso che Lucio Mandarini ha scritto un editoriale sulla tua rivista che si pone questa domanda. Dice: 30 anni fa, se fotografavi la gente per strada eri un reporter, e invece oggi sei uno che viola l'altrui privacy. 30 anni fa, se fotografavi un bambino eri uno spirito sensibile, oggi sei un pedofilo. Insomma, non si riesce più a capire che cosa si può fare. In realtà sarebbe bello poter andare in giro, fotografare. Io credo che il problema nasca da adesso, poi mi dirai tu da dove nasce, però io ho fatto una riflessione su questo. Una volta, quando io andavo in giro e fotografavo, faccio un esempio, poi le foto comunque rimanevano personali. Oggi credo che il problema sia del fatto che la foto spesso viene divulgata, e quindi nasce in realtà un problema di privacy, forse. Quello è il nodo della questione, perché fotografare è un atto libero, se escludiamo il caso in cui stiamo fotografando zone che per legge non possono essere fotografate, e non ci vuole molta immaginazione a capire quali sono, potremmo citare le caserme o comunque luoghi sensibili dove è in gioco la sicurezza del paese, dell'ordinamento. In altri casi tutti siamo liberi di fotografare senza dar fastidio al prossimo, perché l'atto della fotografia non è una violazione in sé della privacy, lo è la divulgazione di questa, la pubblicazione dell'immagine. E purtroppo devo confermarti che anche per mia esperienza diretta, l'atteggiamento della gente negli ultimi anni è radicalmente cambiato, ed è paradossale, sembra quasi un rigurgito di coscienza. Mi spiego: abbiamo lasciato che tutti si intrufolassero dentro la nostra privacy, veramente aprendo la porta principale di casa, tra mail, sms, in qualunque modo noi siamo controllati e monitorati per alimentare determinate scelte delle grandi aziende, e forse, ma questo è molto difficile da controllare, perché comunque tutti abbiamo un telefonino, tutti abbiamo un computer, tutti riempiamo questionari quando andiamo a fare la spesa, ed è molto difficile da controllare, ed è difficile sottrarsi a questo controllo, a questa analisi capillare che si fa delle nostre vite. Invece un ingenuo fotografo con un suo bel teleobiettivo ingombrante, magari di colore bianco, che si vede anche a 2 chilometri di distanza, è facile individuarlo e ci si sfoga su di lui. Secondo me c'è quasi, ecco, una rivalsa, dice: a te t'ho visto e tu a me la foto non me la fai. Senti, più difficile. Siamo stati fotografati mille volte in metropolitana, magari, come col dito nel naso. Tra l'altro, guarda, io recentemente, purtroppo, devo dire purtroppo, sono rimasto molto scosso, ho assistito a un'aggressione, una vera e propria aggressione, e volevo fotografarla e riprenderla, ovviamente, perché però non ho, no, mi sono fatto mille problemi in quel momento, no? Ovvio, perché dico: cosa sto facendo? Poi magari succede che alla fine nel delirio della situazione è sfuggito il momento, ecco, ho perso l'attimo e un po' me ne pento. E i reporter quanta fatica stanno facendo allora in questo momento? Sicuramente di più rispetto al passato. Allora, il reporter di strada, guarda, sì, è all'ordine del giorno, che purtroppo, anche e soprattutto nei luoghi dove si stanno svolgendo conflitti più o meno riconosciuti, i reporter cadano come mosche d'inverno, perché comunque sono permeano il tessuto sociale, loro sono dove avvengono le vicende più pericolose e più dense. Però ecco, se escludiamo questo lato, quindi dalla fotografia di guerra, sì, certo. Il reporter all'antica, quello forse il paparazzo, come forse stai sì, o come semplicemente anche chi fotografa la vita quotidiana di un paese, della società in generale, ecco, c'è anche quello. Guarda, le difficoltà maggiori di chi fa questo tipo di mestiere sono legate al piazzare il proprio lavoro, cioè al mercato che c'è dietro, perché comunque non c'è più, a parte i settimanali di gossip, che comunque continuano a tirare nonostante la crisi generale dell'editoria, il mestiere di reporter non è attualmente uno di quelli che consiglierei a mio figlio di intraprendere domani mattina. Questo poi è tipico di chi fa una professione, che non la consiglia mai al proprio figlio, ma questo è un altro discorso. Per chiudere, Emanuele, l'ultimissima cosa: se hai una battuta su un consiglio da dare per chi volesse fotografare in bianco e nero. La luce chiaramente è fondamentale, ma c'è qualcosa che così può dare più forza alla foto che si sta per scattare? Non lasciarsi distrarre dal colore, cioè riuscire proprio sin dall'inizio a concentrarsi sulle forme e sulla composizione. Andare in giro con davanti un rettangolino all'interno del quale inserire ciò che ci si presenta davanti, dimenticando in quel momento che hanno magari dei colori che non stanno bene insieme, perché il bianco-nero è in questo caso purezza dell'espressione. Ok, grazie Emanuele, cercheremo di ovviamente seguire il tuo consiglio e poi chissà che non si riesca a diventare anche bravi fotografi. Fatemelo sapere. Sicuramente, foto anche perché si possono inviarvi, è possibile inviarvi le foto direttamente in redazione, fotocult.it è il sito. Grazie ancora, ciao Emanuele, buona giornata, buona ciao. Domenica. A proposito di nero, volevo farvi ascoltare questo brano tratto da un altro film che è Tournée, un film di grande successo, con Fabrizio Bentivoglio e Diego Abatantuono. Attenzione alla frase che viene citata: là c'è una porta rossa, la vorrei tinta in nero, niente colori, tutto dipinto in nero, io volterò la testa fin quando arriva il nero. Là c'è una fila d'auto e sono tutte nere, coi fiori e col mio amore che non tornerà più. Io, se mi guardo dentro, vedo il mio cuore nero, poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose se tutto il mondo è nero? Senta, Lolly, quel testo Garcia Lorca, no? Mick Jagger. In realtà poi ne citano molti altri, ma abbiamo preso Garcia Lorca. In realtà l'elenco è più lungo, però ecco, a volte una canzone ha la sua forza. Magicus, buona domenica, ciao. Sì, ciao Stefano. Magicus studiava medicina, a un certo punto ha detto: ma facciamo un altro tipo di mestiere, che è più facile, tra virgolette. No, infatti sto scherzando. In realtà Magicus ha un'anima di attore, ballerino, mago, ovviamente, come dice il nome. Si esibisce con uno spettacolo che si chiama Magicus e Florin, e quindi un duo, ma Magicus è anche forse l'unico in Italia a d'aver intrapreso la strada del teatro del nero, così si chiama il Black Theater in italiano, in inglese, sì, ciao. E Magicus, ci vuoi un po' raccontare cos'è il teatro del nero? Perché magari gli ascoltatori l'hanno visto, c'era anche una trasmissione, c'è stata televisiva qualche tempo fa, ripresa da un format giapponese, ma non sanno che si chiama così. Il teatro nero è un teatro, prende il nome perché si svolge tutto in un ambiente nero. E in questo nero gli oggetti neri, le persone nere non si vedono, mentre al contrario le cose bianche, chiare, vengono esaltate. E quindi su questo principio puoi fare delle magie vere, far apparire dal nulla degli oggetti, farli sparire, far volare delle persone. E questa è la base, no? Poi si è scoperta la luce nera, gli ultravioletti, quella, la lampada di Wood, che esaltano ancora di più alcuni colori, e quindi è diventato ancora più magico questo effetto da quando c'è quella lampada, ecco, dove appunto sì, crei questi flash di colori, di luci che appaiono e ti stupiscono. Ecco, certo, perché avete in realtà una persona, per esempio un attore illuminato davanti, però in realtà dietro c'è il nero costruito tra l'altro in un certo modo, ci sono altri attori, ma non li potete vedere perché sono completamente vestiti di nero e si confondono, diciamo così, con il fondale del teatro, e però prendendo in mano degli oggetti colorati, questi oggetti diventano visibili e quindi magici, perché li si vede volare, muoversi. Ecco, proprio per l'occhio, una sensazione che in TV ad esempio non rende questo teatro, ma è davvero, perché ti sembra impossibile non riuscire a vedere le persone nere. Ma è così, se vedete le persone, ecco, in 3D che ti affascinano, ti lasciano lì estasiato quasi. Ecco, se vedete le persone in nero vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato in quello che state guardando, secondo me. Non mi ricordo il nome della trasmissione, mi sfugge in questo momento, ma era Fantasia forse, con Barbara D'Urso, sì, dove c'erano delle squadre, no, che si esibivano e cercando di raccontare dei piccoli siparietti usando la tecnologia del teatro del nero. Comunque andate su YouTube, guardate, c'è una partita di ping pong famosissima dove la pallina in realtà non è reale, la pallina è un attore che muove la pallina a destra e a sinistra tra i due giocatori, ed è straordinario perché i due giocatori sembra che stiano giocando veramente, in realtà è tutto ricostruito. Ecco, Magicus, la tradizione del teatro del nero a Praga resta ed è fortissima. Sì, praticamente il teatro nero si è sviluppato soprattutto in Cecoslovacchia. Leggevo che nasce proprio nella loro storia per colpa, cioè con questo particolare teatro dove tutto è nero, tutto è buio eccetera, permetteva alle persone del pubblico di non essere viste, e usavano questi teatri neri per scambiarsi anche informazioni durante l'occupazione comunista che c'è stata in Cecoslovacchia, no? E da lì, quando poi questo ha creato uno sviluppo, perché poi la cosa serviva, era anche utile al popolo. Così ho letto su internet, no, questa storia particolare che non conoscevo, e lì poi si è sviluppato proprio nel 60, intorno agli anni 60, con l'avvento della luce Wood, questi teatri così ad ogni angolo di strada, e poi e l'hanno portato un po' in tutto il mondo, e lì grazie a questa cosa in pratica ormai è famoso Praga, ecco, infatti se andate a Praga durante le feste natalizie non fate assolutamente sfuggire uno spettacolo del Teatro del Nero, perché vale davvero la pena essere visto. Tu ne hai uno da citare, Magicus per esempio, mi viene in mente Alice nel Paese delle Meraviglie, ma ce ne sono molti altri. Ci sono tanti, ci sono teatri moderni, c'è il nero usato in chiave moderna, con balletti, con apparizioni, con racconti teatrali anche contemporanei, mentre invece, oppure racconti classici dove c'è la storia di qualcuno che viaggia in questo mondo fantastico dove può succedere di tutto, molto racconti onirici anche, dove puoi appunto grazie al nero sognare, vivere delle fantasie particolari. È vero, perché tu ad esempio, scusami, ti ho interrotto. Avevo fatto uno spettacolo nero particolare dove era il viaggio nel mondo della fantasia, dove della fantasia e della magia, perché la magia vive solo nel mondo della fantasia, dove appunto c'era tutta una serie di vari maghi della storia, cioè il mago antico, mago tribale, poi si arrivava al prestigiatore e poi il mondo della fantasia arrivava nei cartoni animati, dove grazie al nero ti permette di creare tutte le gag dei cartoni animati, dall'apparizione degli uccellini quando prendi una botta in testa, cioè proprio tutti questi effetti particolari che sono... Sì, altrimenti sarebbe impossibile ottenere o particolarmente costoso. Invece la cosa straordinaria è che il teatro del nero, con un costo relativamente basso, dà la possibilità di fare qualunque tipo di cosa. Io vi consiglio di andare sul sito di Magicus, che è magicus.it, e cercare, perché spero che ritorni il tuo teatro del nero, Magicus, perché per il momento è fermo, ma mi auguro che ritorni l'anno prossimo. Si intitola The Magic Voodoo e andate a vedere le fotografie per capire di cosa stiamo parlando. Grazie Magicus. Grazie Stefano. Buona domenica, ciao. Subito i ragionamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare di nero. Il riposo del guerriero. 10:49 minuti. A proposito di teschine ricaricabili, Gianrico scrive un sms: ci sono i sistemi di ricarica in continuo, le teschine si possono facilmente pulire anche senza smontare niente, io lo faccio, bravo. Giannico, ho letto Gianrico, ma è Giannico il nome, perché è anche un risparmio per l'ambiente, sicuramente. Allora, stiamo parlando di nero e a questo punto vediamo un po' da dove arriva la parola. Francesca Dragotto, ciao! Buongiorno, ciao! La nostra glottologa ha fatto un elenco di 4.000 frasi italiane che hanno... Non so se riuscite voi a trovarne altrettante, ma noi ne abbiamo scelte alcune. Da dove partiamo? Dal genere, forse, Francesca? Dal genere noir? Allora, partiamo dal suggerire a tutti di aggiungere le proprie forme di nero andando ad esempio sul sito che raccoglie tutte quante le curiosità di cui man mano parliamo la domenica, che si chiama tuttopoli.com. Brava! Dopodiché, sì, perché poi molti mi scrivono e mi dicono: ma dove sono queste cose? Allora ho detto, questa volta lo dico subito, quindi tuttopoli.com. Oh, nero naturalmente viene dal latino Niger, che però secondo la pronuncia classica si pronunciava Niger, e secondo gli esiti tipici del passaggio tra il latino e l'italiano ha dato in italiano la parola appunto nero. A questo punto dobbiamo fare due diverse considerazioni: la prima relativa al rapporto tra nero e negro, uomo nero o uomo negro, perché l'italiano usa nero per quasi tutto ciò che è caratterizzato da questo colore, compresa la pelle, perché diciamo quell'uomo ha la pelle nera, però quando parliamo dell'uomo in sé, allora diciamo negro, almeno dicevamo negro. Sì, vabbè, poi il dispregiativo arriva dagli Stati Uniti, ma in realtà noi non ce l'abbiamo, ecco, quella valenza lì. Innanzitutto noi negro in riferimento a un uomo l'abbiamo ripreso dallo spagnolo, dove quella forma non ha nulla di dispregiativo, perché si tratta della continuazione spagnola della stessa forma latina da cui noi abbiamo preso nero, quindi negro è esattamente un equivalente. E lo abbiamo preso per effetto di un contatto interlinguistico intorno al 1500, quindi in italiano le due parole costituiscono una sorta di doppione. Però appunto l'imbarazzo che spesso proviamo, vediamo che gli altri provano nell'utilizzarlo, non ha nulla a che fare con la lingua, perché appunto si tratta della stessa parola. La cosa interessante però è che in latino esistevano due diverse parole per il colore nero, così come due per il colore bianco, perché l'occhio del romano era sensibile alla differenza tra i colori brillanti e i colori opachi, per cui abbiamo nero che se dobbiamo andare a vedere il tipo di sfumatura è il nero brillante e non il nero opaco, per cui si utilizzava la parola ater. La parola ater non si è mantenuta per indicare un colore nel passaggio all'italiano, però noi la manteniamo nell'aggettivo atro. Quando diciamo che siamo in un ambiente atro, fosco, ci riferiamo a quell'idea di scuro che spesso incute soggezione, fastidio. C'è l'ipotesi anche che atrio appunto nel senso di un cortile, di un luogo recintato, abbia a che fare con questa parola proprio per via dell'essere chiuso, dell'essere ristretto e quindi poco luminoso. Al di là delle parole che già in sé sono interessanti, lo stesso appunto dicevo si potrebbe fare con il colore bianco, dove Albus e Candidus si dividevano la sfera appunto di questo colore, credo che sia interessante parlare dell'emergenza dei colori, dove con emergenza non intendo dire la mancanza, la crisi, l'assenza, ma il modo in cui le parole per i colori emergono nelle diverse lingue, nei diversi lessici delle lingue. Perché? Perché se partiamo dal presupposto che tutti abbiamo lo stesso occhio, ci dovremmo chiedere come mai alcune lingue vedono, rappresentano, verbificano determinati colori, mentre altre no. Insomma, ci sono lingue che distinguono blu e verde, lingue che non li distinguono, lingue che hanno tre parole diverse per rosso, rosa, arancione, lingue che invece identificano questi tre colori come tre sfumature di uno stesso colore principale. Ma scusa, quindi allora, vuoi dire che, scusami, perdonami Francesca, vuoi dire che in alcune lingue i colori non sono tutti decodificati come parola? Certo. Esattamente, quindi questo apre una grossissima discussione su chi influenzi chi o cosa influenzi cosa. È la lingua che influenza il nostro modo di percepire la realtà o è la realtà che influenza le nostre lingue? Sei marzulliana in questo momento, eh? Ecco, bisogna... adesso mi hai confuso, non so, devo pensare. Lo spettro dei colori è ovviamente lo stesso, quindi da un punto di vista fisico e dal punto di vista di come la retina lo percepisce, sì, tutti quanti gli uomini partono da uno stesso punto, però non è uguale il modo in cui quello spettro viene articolato. Sì, ma mi sconvolge il fatto, scusami, hai parlato di verde e di blu prima? Se non sì. Cioè sì, ci sì. sono delle lingue in cui il verde e il blu sono definite con lo stesso nome? Sì, perché sono due sfumature dello stesso colore. In italiano abbiamo avuto un processo analogo nel rapporto, ad esempio, tra celeste e azzurro. Celeste è una parola del lessico originario che ha a che fare con il cielo. Azzurro è frutto del contatto interculturale, quindi anche interlinguistico con l'arabo. Sì, la capisco di più perché sono più vicini, ma il blu e il verde, onestamente, così mi riesce più difficile. Ma andiamo avanti, è semplicemente, mi sto chiedendo, in effetti, questo fa perdere la percezione, ovviamente, secondo me. Della sì. percezione, perché noi spesso ci arrocchiamo dietro al fatto che una cosa è così perché la vediamo in questo modo e non ci rendiamo conto che invece nella nostra percezione della realtà agiscono dei fattori che sono sì culturali, ma che ormai si sono sedimentati all'interno proprio della nostra capacità di vedere il reale, di vedere il mondo. Quindi un qualcosa che noi percepiamo come distinto al punto tale da identificarlo con un nome suo proprio specifico, per un'altra cultura può rappresentare semplicemente una variabile. Non è che l'occhio non la veda, non la ritiene pertinente o distinta rispetto ad altre cose, al punto tale da doverla identificare con un nome suo proprio, autonomo. Quindi a quel punto si ricorrerà, che so, a blu chiaro o blu scuro, per dire, nel momento in cui non ho altre sì, sì, possibilità, altre, certo, certo. Esattamente. Al di là di questo, così chiudo su questa, sì. questa curiosità. Quello che è interessante è che degli esperimenti che sono stati condotti in un ambito a cavallo tra quello linguistico e quello antropologico hanno mostrato che però, al di là appunto di differenze interpretative, è possibile individuare una sorta di sequenza evolutiva dello sviluppo dei lessici di colore di base. Quindi quello che voglio dire è che se abbiamo soltanto due colori in una lingua, guarda caso questi due colori sono il bianco e il nero. Il terzo colore è sempre il rosso, che a sua volta precede il verde, il giallo, e verde e giallo, o giallo e verde perché possiamo trovarli anche invertiti, vengono prima del blu. Il blu viene prima del marrone, il marrone precede il viola precede il rosa, l'arancio e il grigio. Questi ultimi li possiamo trovare anche scambiati tra di loro, però li troviamo sempre in quest'ultimo blocco. Quindi è come dire, il bianco e il nero hanno qualcosa che fa sì che siano in assoluto i primi colori. Naturalmente questo può essere collegato al fatto, alle particolari onde di questi colori, alle particolari caratteristiche che al di fuori della fisica ne fanno dei non colori, spesso nella letteratura sentiamo certo. parlare... Allora, Francesca, ecco, tutto questo ci ha portati al GR, ovviamente, ma sono arrivate decine di domande da parte degli ascoltatori. Le cercheremo di rispondere dopo il GR. Grazie per adesso, Francesca, perché sono Grazie domande alle quali sai rispondere, perché sono gli argomenti che avremo toccato tra poco. Il riposo del guerriero. Eccoci qua alle 11 e quasi 8 minuti, Riposo del Guerriero. Oggi parliamo del nero, questo è l'argomento. Poi Francesca Dragotto cercherà di rispondere ai messaggi che intanto sono arrivati, quindi arriverà con le sue risposte, il perché si dice nero questo, nero quell'altro, eccetera eccetera. Vi ricordo anche il numero per giocare, 11.30 con il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24. Ho parlato del teatro del nero prima, del Black Theater, e volevo citare anche, grazie a un messaggio che è arrivato, il teatro del Buratto. Loro fanno anche teatro del nero, il sito è teatrodelburatto.it e sono spesso all'estero, come mi dicono, e mi scuso per non essermi ricordato, peraltro li conosco anche e ho visto diverse loro cose. Detto questo, Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, buongiorno. Ciao, buongiorno Antonio. Eccoci, senti, devo parlare di nero anche nella moda, perché voglio capire se il nero è ancora di moda, quando va usato e come, soprattutto nel 2011. Ma allora, il nero è sicuramente, come dire, un caposaldo della moda in generale, sia sulle passerelle ma soprattutto fuori dalle passerelle, cioè è un po' la divisa che viene usata da tutti gli addetti ai lavori. Quando noi andiamo a vedere le sfilate sembra quasi che ci sia una massa di scarafaggi molto eleganti che invade queste sfilate, perché in effetti è vero che quelli, i giornalisti, le persone che comunque sono invitate alle sfilate, tendono ad assumere, no, questo colore come loro colore principale, come loro colore di riferimento. E sicuramente il nero è sempre stato una costante della moda, perché sostanzialmente, come molti scrittori, come anche molti sociologi hanno scritto, è un colore profondamente ambiguo. Tu mi chiederai perché, Gallerini? Perché è un colore ambiguo? Perché stavo pensando mentre mi ascoltavo. Immaginavo, prima, che sostanzialmente, se pensiamo al nero legato all'abbigliamento, è un colore che segna più che altro dei gruppi di appartenenza, cioè chi si veste di nero, si vestono di nero giornalisti di moda, ma si vestono di nero anche i preti, ma si vestono di nero anche i punk, e quindi nella storia del costume il nero ha sempre in qualche modo sottolineato l'appartenenza a un gruppo, a una tribù, in cui da un lato c'è un aspetto per l'appunto di quasi di voler negare, no, la frivolezza dei colori, dall'altro c'è anche invece questa attestazione di lusso. Il fatto che il nero sia un colore così privilegiato alla moda e non ci sia stagione dove non ci sia uno stilista, pensate anche al cinema, no, a Rita Hayworth che canta in Gilda, che ha un bellissimo tubino nero, c'è sempre una costante del nero, è perché poi in realtà nella storia della moda in realtà il nero, al contrario di quello che si può pensare, era il colore dei ricchi, perché era il colore che più difficilmente si fissava al tessuto, e quindi paradossalmente se da un lato uno lo può associare al punk, dall'altro invece è anche un colore che esprime una grande ricchezza, esprime un grande lusso, proprio per questa ragione, per il fatto che un tempo, parlo appunto del Medioevo, era il colore più difficile da ottenere. Ecco Antonio, un'ultima battuta, c'è un'occasione in cui il nero assolutamente non andrebbe indossato o no? Beh, sicuramente matrimoni, diciamo che uno dei grandi errori che viene fatto ai matrimoni, e io ho fatto il commenter sia per il matrimonio di William e Katie, di grandi matrimoni di quest'anno, sia per quello per Alberto di Monaco, aver visto signore anche, come dire, note per la loro ricchezza, per la loro eleganza, vestirsi di nero. Questo normalmente non si fa, proprio perché, come non si mette neanche il bianco, come giustamente dicevi tu all'inizio, perché sono colori non colori, mentre invece dovrebbe essere un'occasione di festa e quindi da festeggiare anche in maniera cromatica, adeguata all'occasione. Ecco, la prossima volta che sarete invitati a un matrimonio, prima sentite Mancinelli, chiedete appunto consiglio e poi abbigliatevi. Che verrà vestito come un becchino, ovviamente, questo è un classico. Ciao Antonio, grazie ancora. Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona domenica. Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire. A questo punto voglio farvi ascoltare, lo dico subito, andremo un pochino in ritardo sulla viabilità, quindi avviso chi in questo momento è in auto. Volevo farvi ascoltare un'esperienza decisamente noir, vissuta da Arturo Bracchetti, che è in giro con il suo spettacolo Chuck si gira, con, devo dire, grandissimo successo in tutta Italia. Oggi l'ultima replica per Milano, poi da martedì sarà a Torino per una settimana al Teatro Colosseo, e Arturo Bracchetti ci racconta la sua esperienza di Sleep No More. Quest'estate ero a New York e ho chiesto ai miei amici che cosa c'era da vedere. Ovviamente, a parte i soliti spettacoli, mi hanno detto: tu devi vedere assolutamente Sleep No More. E dico: cos'è Sleep No More? Uno spettacolo? No, è un'esperienza. E così mi sono ritrovato in una via di quelle di Manhattan Sud, un po' abbandonata, davanti ad una specie di palazzo abbandonato. Insieme ad altre persone, erano le 11 di notte, e siamo entrati in questo posto, che poi ho scoperto dopo era un albergo abbandonato. Questo McKiernit Hotel fu costruito nel 1939 e non aprì mai perché scoppiò la guerra, e solo ora, da pochi mesi, è riaperto al pubblico attraverso questa serata misteriosa completamente nera. Si paga un biglietto, ovviamente, e ti portano in un bar anni 30. Tutto è rigorosamente anni 30, la cantante, il batterista, il pianista. Dopo ci dividono in gruppo di 20 e ci portano in un'altra stanza, dove ci danno una maschera bianca, un po' come una bauta veneziana, un po' come nel film Eyes Wide Shut. E ci dicono che d'ora in poi bisogna far silenzio e tutto è a nostra disposizione. Ci mettono in una specie di montacarichi e ci fanno salire attraverso i piani di questa costruzione. E scopriamo di essere in questo albergo di 4 piani, completamente riarredato, anni 30, come se gli ospiti di questo albergo fossero partiti un'ora prima. E quindi al pian terreno c'è una vastissima sala da ballo, al primo piano c'è la reception dell'albergo, il ristorante, il bar, tutto, ma ripeto, con le posate, i bicchieri, tutto come se fosse lì abbandonato qualche secondo prima. Al primo piano c'è un grande bagno, un appartamento. Nell'appartamento c'è una stanza con un letto fatto, tutto normale, uno specchio. Guardo attraverso lo specchio e il letto è disfatto con una grande macchia di sangue. In un'altra stanza c'è una stanza di un neonato con tutti i vestitini del neonato riempiti di carta di giornali, ovviamente degli anni 30. Apriamo i cassetti. E nei cassetti ci sono libri, piante, indizi, non si sa di che cosa. Tutto ciò in una penombra abbastanza inquietante, con del fumo teatrale ovviamente, e sono praticamente 3500 metri quadri. Al primo piano c'è ancora un labirinto trasformato in cimitero, con terra battuta vera, un freddo perché mettono l'aria condizionata a manetta. E all'ultimo piano c'è ciò che doveva essere un ospedale psichiatrico degli anni 30, con tutti i lettini in fila, poi in un'altra stanza i bagni, in un'altra stanza le vasche da bagno, e ancora un labirinto enorme nella nebbia con degli alberi, tutto ciò all'interno ovviamente della costruzione. Si gira per un'ora e mezza, passando appunto da cose curiose che uno trova, un'altra stanza con una cassa da morte, tutti i bigliettini appesi, uffici, cappella, eccetera, eccetera. Dopo un'ora e mezza che si è lì con tutti gli altri ovviamente in maschera, non ci si riconosce più. Dopo un po' arrivano degli attori, della gente senza maschera, vestiti rigorosamente anni 30, e si mettono a fare delle azioni normali: chi batte a macchina, chi prende un libro, taglia una frase, la mette, la appende, la incolla su una bacheca, un altro entra in un ufficio, chiede ad un altro di fargli la barba, gli fa la barba, però sembra che da un momento all'altro il rasoio voglia sgozzarlo. Una donna incinta arriva alla reception dell'albergo, suona il campanello. Il portiere la vede e di colpo capisci che questi due si conoscono. la serva che porta le valigie, poi dopo la fa accomodare in una parte, diciamo, di ristorante, le offre un bicchiere di latte, però prima di offrirglielo versa dentro una polverina. Allora questa donna incinta prende sto latte, che forse è avvelenato, non si sa, lo beve, sta male, ma poi gli piace, quindi chiede alla serva di dargliene di più. Insomma, tutte azioni mimate, non ci sono parole, con questa musica sempre molto inquietante nell'aria, e in cui noi ci facciamo la nostra storia, ci inventiamo il perché di tutte queste azioni. Continua la cosa, abbastanza sempre più sorprendente. È vietato ai minori di anni 18, perché al bar vendono gli alcol, ma anche perché ci sono delle scene un po' di nudo, un uomo che entra con le mani insanguinate in una stanza, poi si mette una vasca da bagno, si spoglia e si lava, un'altra stanza dove il bar dell'albergo è trasformato in un sabba con gente seminuda che balla con la testa da caprone. Insomma, tutto ciò per circa 3 ore. Dopo circa 3 ore praticamente ci spingono tutti verso la sala da ballo, che è a pian terreno, e lì su un podio si riuniscono questi 12 attori che abbiamo già visto negli altri piani, e si mettono in una posizione di cena, sembra un po' l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Arriva l'ultimo, il 13esimo, con le mani insanguinate, e da lì uno capisce, forse è un Giuda, va a sapere. Viene portato sulla tavola, viene messa una sedia, lui sale in piedi sulla scena, scende un cappio, gli mettono la testa attraverso sto cappio e al rallentatore tolgono la sedia e lui rimane appeso su di noi. La musica riparte e si lascia il teatro così, con le nostre maschere e i nostri dubbi. È stata comunque una delle cose più belle, più inquietanti, più magiche della mia vita. Era Arturo Bracchetti che ha raccontato la sua esperienza di Sleep No More. Se andate a New York, magari per queste vacanze di Natale, non fatevelo sfuggire. Il sito è sleepnomore.nyc, che sta per newyork.com. Il riposo del guerriero. Sono moltissimi i messaggi che sono arrivati, non riesco a leggerli tutti, è impossibile, e c'è in onda, voglio dire, perché io li leggo tutti. Francesca Dragotto, eccoti qui. Allora, rieccoti, anzi. Tante le domande, io comincerei dai gialli. Perché non si chiamano i neri, ma da qualche parte si chiamano i neri, punto di domanda. Beh sì, anche perché il noir è una declinazione del giallo, che però rispetto al giallo non si limita a svelare il mistero, ma intende porre una riflessione sulla società contemporanea, su questioni legate alla cronaca, alla politica. E la ragione per cui si chiamano neri è legata al fatto che Gallimard, quando pubblicò i primi 3 romanzi, romanzi di autori inglesi, quando appunto li pubblicò, fece scegliere a Prévert il titolo della collana, e Prévert propose quella di serie nera, quindi noir, série noir. Siamo nel 45 e naturalmente si è passati dal nome della collana al contenuto della collana, e quindi dalle noir per identificare il genere. La stessa cosa è successa in Italia col giallo, perché numerosi polizieschi, numerosi di quei testi che poi sarebbero stati chiamati gialli, sono stati pubblicati in una collana di Mondadori che aveva per l'appunto la copertina gialla. Quindi se la copertina fosse stata verde, chissà, forse li avremmo chiamati verdi. Chiaro. Poi c'è il Black Friday, ormai se ne parla tanto. Beh, è il primo giorno, diciamo, dedicato allo shopping natalizio, dopo il ringraziamento. Sì. Un giorno noto per il traffico al di là di ogni immaginazione, è il primo venerdì successivo al Thanksgiving, quindi appunto al giorno del ringraziamento, e nella cultura statunitense coincide con l'avvio delle pratiche natalizie, quindi tutti in macchina per andare nei grandi centri commerciali a fare shopping, e di lì appunto l'idea del nero, perché c'è quel traffico nero tipico dell'imbottigliamento da cui non si riesce ad uscire. Ecco, e poi allora a questo punto la maglia nera, perché si dà la maglia nera a chi arriva ultimo, in generale, insomma, quando qualcuno non ce la fa? La storia storia è molto carina e mi ha fatto piacere vedere che Wikipedia l'ha pubblicata con tantissimi dettagli. È simbolo dell'ultimo classificato, è stata ispirata dalla figura di Tico Zelli, un calciatore che aveva militato in tantissime squadre, tra cui il Casale. L'uniforme del Casale presenta appunto una maglia nera con una stella bianca. Tico Zelli era un calciatore, decise di iscriversi da privato al Giro d'Italia, si presentava con la maglia del Casale, e era un personaggio piuttosto stravagante, arrivava in taxi, si portava la bicicletta sul taxi, diciamo che non era esattamente interessato all'esito della gara, e quindi dal suo atteggiamento stravagante che lo portava a non concludere le tappe o in ogni caso ad introdurre dei divertissement durante le tappe stesse, da tutto ciò conseguiva il fatto che arrivasse per ultimo, si è presa l'abitudine di identificare l'ultimo con maglia nera. E la pratica di attribuire la maglia nera durò molto poco, perché i ciclisti professionisti videro un atteggiamento di dileggio nei confronti appunto dello sport stesso, sì, nel fatto di premiare chi arrivasse ultimo. Dobbiamo immaginare che erano previsti dei premi per l'ultimo arrivato, e che questo portava dei ciclisti che non potevano ambire al primato a competere invece per arrivare ultimi, quindi certo. Alla fine lui ce l'ha messa tutta, ecco. Sì. Ecco perché quindi poi maglia nera adesso è diventato di uso comune per identificare, sì, che arriva ultimo in generale. Grazie Francesca. Voi ricordiamo il sito dove potete rifare le domande che avete mandato via sms, volete anche inviarle sul sito e Francesca vi risponderà. Esatto, il sito si chiama Tuttopoli, come la città di tuttopoli.com, oppure c'è la pagina Facebook. Grazie mille. Grazie a te, ciao Francesca. A presto, buona domenica. Allora, intanto sono arrivate segnalazioni di altri spettacoli tipo Slim No More in giro per il mondo. Grazie davvero, ma è arrivato il momento di aprire le porte al nostro gastronauta. Fiorfiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi presenta il gastronauta. Lo spettacolo dell'enogastronomia. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi, visto che si avvicina il Natale, ormai insomma alle porte, tra poco poi, dopo Sant'Ambrogio, Milano anche si illuminerà completamente, di cosa ci parli? Ma ho sentito che il tema era il nero. Il nero, sì, ecco. Io volevo evitare di chiederti del nero di seppia, ovviamente. No, io la cosa curiosa, quando ho sentito che si parla di nero, mi è venuto in mente una cosa, cioè quello che molti ristoratori, molti hosti fanno i furbi, ti danno la ricevuta dove c'è scritto in piccolo non costituisce ricevuta di scarto. Ecco, quindi sto parlando di un altro nero, in poche parole. Quindi parliamo di un altro nero. No, oggi bisognerebbe parlare, visto che si avvicina il Natale, ti voglio parlare di panettoni, ma in maniera un po' particolare, sì. Panettoni femolo strano. Nel senso che ormai non c'è più, come posso dire, limite alla fantasia. Ho sentito proprio ieri sera un panettone affumicato. Ecco, senti, io, vabbè, adesso non so cosa pensi tu. Io non amo molto, diciamo, questo genere di libertà su un prodotto tipico, in generale. No. Poi non so tu cosa pensi. Ma ovviamente. Io sono dello stesso opinione, anzi io ti dirò che amo quelli con molti canditi e le uvette proprio. Cioè quello che più tradizionale si muore e lo voglio di 3 o 5 kg, mangiandolo con le mani, perché secondo me solo con le mani si assaggia la fragranza del panettone, perché tu metti la mano, strappi e te lo metti in bocca, è fantastico, anche la sensorialità del tatto è enorme. Se tu invece vedo qualcuno che lo taglia col coltello, se lo mangia a spizzichini col coltello e forchetta, si perde tutto, si perde il gusto del panettone. Il panettone è una cosa da bambini, bisogna mantenere questa età mentre si mangia il panettone, da ingordi, bisogna mangiarlo a ripetizione proprio con le mani. No, ti dicevo femolo strano perché è una realtà di quest'anno, io ne ho assaggiati di diversi, ma soprattutto sta prendendo veramente piede il panettone che in luogo del burro ha l'olio d'oliva. Ecco, questa è una tendenza sicuramente ancora una volta spinta da questo benessere, spinto bisogna stare bene a tavola, che bisogna usare cibi leggeri, ecco, cioè, diciamo che va via tutta la voglia della gola del panettone, mi spiace, insomma. Poi ce ne sono altri, uno alle olive dolci, io ho sentito un altro alle olive dolci, e diciamo che era un po' così dubbioso, però ti devo dire che questo alle olive non era niente di male. Ecco, però infatti sul gusto poi vabbè, lì possono essere anche buonissimi, è proprio il fatto del dolce, non chiamiamolo panettone, chiamiamolo in un altro modo, Infatti questo alle olive si chiama olivotto, mi sembra. Ecco, allora ci siamo, va bene. Però ecco, il panettone che secondo me è quello più gustoso è il panettone gastronomico, quello proprio è ricco, cioè uno se lo mette in bocca, mangia sempre cose diverse, e quello una, diciamo che un sandwich tira l'altro, per cui alla fine bisogna tirarlo fuori con due fette. Il panettone gastronomico secondo me si è perso molto l'uso, è difficile trovarlo in giro il panettone gastronomico. Poi vabbè, ci sono i panettoni al cioccolato, ci sono i panettoni all'ananas, ci sono ormai al kiwi, ormai c'è un po' di tutto. E tu hai ragione, però vedo che c'è questa tendenza di... Ma forse perché bisogna, sai, perché le persone credono che ogni Natale, siccome è sempre la solita cosa, si porta in tavola qualcosa di particolare, di nuovo. Ma invece forse proprio la solita cosa è quello che ci piace di più. Insomma, quindi va bene un panettone, come dici tu, magari 5 kg grande, proprio perché tutti possono affondarci le mani e strapparsene un pezzo alla fine. Ma magari, sai, la novità gira un anno, poi l'anno dopo si torna al passato, quindi è sempre così, quindi lasciamoli fare quest'anno e poi si trovano ancora i panettoni normali, non ci sono dubbi in giro. Però quest'anno mi ponevo questo, io non vedo molta atmosfera di Natale in giro, ma non un po' in dappertutto, in questi ultimi tempi ho girato abbastanza. Per ora neppure io, ecco, è una sensazione comune. E mi chiedevo se ancora ci sarà questo pranzo di Natale, se ancora la gente... E così i parenti si riuniranno di fronte al tavolo, mangeranno, come dicevi tu giustamente, le cose tradizionali, ad esempio delle mie parti, cappelletti in brodo e di seguito. Non lo so, ho paura che quest'anno, al di là del discorso della crisi economica, quindi che ci sono meno soldi da spendere, però devo dire che un pasto di Natale tradizionale non è poi che costi l'ira di Dio, a meno che uno non voglia andare a prendere cose appunto femoro strano. Però ho l'impressione che stia veramente scemando ed è secondo me un grave pericolo per noi stessi, per la società ed altro, perché ogni anno ho visto scemare sempre di più e sempre venir meno questo tipo di tradizione. Magari rimane ancora l'ultimo dell'anno perché ci sono le feste, ci sono i balli, ci sono tutto, però Natale lo vedo un po', come posso dire, in una curva discendente. Questo mi dispiace molto, non tanto per il pranzo, ma proprio come festa tradizionale in sé, perché devo dire anche gli alberi di Natale in giro se ne vedono meno degli altri anni. Un tempo nei negozi, un po' dappertutto, se trovavano qualcuno faceva l'albero, oggi mi sembra che siano rimasti sempre meno. Questi che ricorrono appunto all'albero. Ma ci sono quegli straordinari gonfiabili col Babbo Natale che si gonfia. Per carità, appunto, sono questi i gravi rischi. Sono questi i gravi rischi. Magari, che ne so, domani si mangeranno i tortellini di plastica. Speriamo di no. Speriamo che invece questa voglia di festeggiare il Natale arrivi magari non così presto, perché in fondo manca così una ventina di giorni tutti, e che insomma si avvicini mano a mano che si avvicina il 25 di questo mese. Grazie Davide. No, intanto. Volevo dire, un tempo cominciavano le cene di ufficio, cominciavano le cene degli amici, ora... Mi sembra che questo qui non ci sia veramente all'orizzonte, ne sento poche di queste cene di un tempo, quindi secondo me si partiva lunghi anche prima, perché poi la gente era impegnata per le sue cose. Certo. Va bene, speriamo invece di sbagliarci. Chi lo sa, però insomma mancano solo 20 giorni. Grazie. Speriamo che io me la cavi. Grazie ciao. Davide. Ciao, sicuramente. Insomma, io sono sicuro che invece molti staranno già preparando, magari appunto non per tutte le cene, quelle aziendali, quelle degli amici, così, però quella della famiglia sì. Il riposo del guerriero. 11:37 minuti, via con il nostro cronometro. Un mistero in 24 minuti. Allora, dovete risolvere questo mistero ascoltando gli indizi musicali. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Ma partiamo da 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il numero verde 800 24 00 24. Il primo indizio arriva adesso. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno nei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Mi stavo godendo, devo dire, i chiaroscuri del pianoforte di Paolo Conte di Azzurro, perché questa versione, diciamo così, originale e non quella orchestrata poi a Celentano ha molto più chiaroscuri, proprio perché ha solo il pianoforte, per cui è così, secondo me è più forte da un punto di vista delle sensazioni. Credo che il primo sia, non so come si legga, Ushang da Roma, pronto? Sì, pronto. Avrò sbagliato il nome, immagino, non lo so. Come si pronuncia? Mi sento? Sì, cioè, sì. Sente? Sì, sì, ti sento. Mi scusi, che devo togliere il microfono, mi sento. Pronto? Eccomi qua, io sento, eh. Ushang, è giusto? Sì, sì, è giustissimo. Eccoci qua. Allora, primo di oggi, 1.000 euro sul tavolo, si possono ascoltare altri indizi e scendere a 500 euro, oppure, Ushang, puoi dare la tua risposta. Cosa vuoi fare? E rispondo al quiz. Allora cerchiamo di portarci a casa i 1.000 euro. Dimmi, Ushang. Allora, io credo riguarda il traffico Roma Milano. Sai che, scusami, non riesco, ti sei intubato e quindi non riesco a capire cosa hai detto, perché a un certo punto da una caverna sembrava parlarsi. Riproviamoci. Pronto, eccoci qua, vai. Blocco di traffico che c'è stato nelle giornate di giovedì e venerdì nelle città di Roma e Milano. Okay. Ah, il blocco del traffico, adesso ho capito, scusami, ci siamo, sì, esatto, poi le targhe alterne le hanno tolte a Milano, però ho capito perfettamente. Grazie Ushang, ciao, cambia il, credo il viva voce, credo che fosse collegato con il viva voce, perché non è che funzioni proprio benissimo. Gianluca da Padova, buongiorno. Eccolo qua. Ciao Gianluca. Poi. Ecco, torniamo alle targhe alterne come negli anni 70, le domeniche a piedi, io pattinavo, vabbè. Allora Gianluca, che cosa vuoi fare? Ma tenterei anch'io... Una risposta, così, i 1.000 euro fanno gola, vicino a Natale, lo so. Eric mi porta i 1.000 euro, spero. Allora? Guarda, io voglio provare con... Ecco, lo so che voi un po'... Spesso, insomma, andate a cercare temi un po'. Quindi dico, provo a dire Giovanni Trapattoni. Perché? Beh, perché ha incontrato l'Azzurro, cioè rincontrerà l'Azzurro ai prossimi europei, e poi comunque lui l'ha allenato l'Azzurro, per cui insomma diciamo che il tema c'è. E può essere. Grazie Gianluca, ciao, buona giornata. Tornata a voi. Ciao, come sapete la risposta potrebbe essere anche quella giusta, ma fino al 24esimo minuto non ve la svelerò. Valeria da Roma, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Valeria, allora cosa facciamo qui? Abbiamo ancora 1.000 euro sul tavolo. Cosa facciamo? Io sono un ex atleta della nazionale, ho sentito parlare tra Trapattoni, calcio. Sì. Sì, non è detto che la strada sia quella giusta, voglio dire. Però siccome stavo pensando al gastronomo che aveva dei primi in linea, al panettone. Al gastronauta, sì. Se lo chiami gastronomo ti chiami, viene a casa tua, sì. Come? No, dico, se lo chiami gastronomo viene a casa tua, il gastronauta, Davide Paolini. Ecco. Ah, ok. È la domenica mattina allora, che un po' è difficile svegliarsi. Niente, io volevo sapere siccome ascoltavo, sì, che davi l'indizio, io se mi puoi ripetere la domanda, hai fatto ascoltare la canzone? E devi dare una risposta, e può essere una notizia della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Ok. Ora puoi ascoltare un altro indizio, ma il premio scenderebbe a 500 euro, oppure dare la tua risposta. Preferisco ascoltare un altro indizio. Immaginavo che fosse così, eccolo qua. Sei trovato il piano, sei venuta giù. Un passaggio da un gabbiano. Ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno, era maggio, c'era caldo. Eccola qui, questo era il secondo indizio, credo dei più grandi successi di Fabio Concato, che è Fiore di Maggio. Una canzone famosissima. Lo so. Lo so. Io quello che posso, cioè magari non riesco a capire la risposta, a decifrare. Non saresti l'unica. Comunque il Celeste, prima avete fatto ascoltare Azzurro. Sì. Che comunque nella lingua richiama l'arabo. Valentina, hai 7 secondi. Richiama l'arabo, Valeria, l'azzurro. Il celeste richiama il cielo nelle lingue. Quindi la risposta. La della percezione. La risposta quindi è? La risposta è arabo. L'arabo. Come lingua. Ah, ho capito, perfetto. Grazie Valeria. Azzurro. Ciao, ciao, grazie. Ma che panegirico interessante, qualche associazione. Chi lo sa, l'arabo. Ma è una cosa sicuramente conosciuta. Strade in diretta. Sono code per un incidente a Roma sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza dell'Ardeatina. I rallentamenti sul tratto appenninico dell'Autosole tra Barberino e Roncobilaccio verso Bologna sono le conseguenze di un incidente avvenuto in precedenza su un tratto in cui la visibilità resta bassa a causa della nebbia e persiste la nebbia oltre che nelle valli appenniniche anche sulla pianura padana e lungo le coste romagnole. Noi torniamo tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Alessio, buongiorno. Ciao. Oh, finalmente uno che sentiamo bene. Erano 4 telefonate che non sentivo niente, cioè molto male. Allora, Alessio, 2 indizi li abbiamo dati. E cosa vuoi fare? Abbiamo 500 euro in questo momento. Ma io ascolterai un altro indizio. Dici, perché no non scendere a 300? Tanto ne abbiamo già persi un po' e perdiamone ancora, giustamente. Avevo in mente, diciamo, una soluzione, però Il secondo... ho un dubbio, quindi preferirei... Bravo, è meglio portare a casa meno, ma portare a casa, giusto? Sì. Concordo con te. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. Ti sei illuminata e simpatia. Eccolo qua il terzo indizio, Alessio, l'avrai riconosciuta, la spada nel cuore di Little Tony. Sai che allora, gli indizi possono nascondersi nella canzone, nel titolo o anche nel cantante o il gruppo. Vabbè. Tento con la soluzione che avevo in mente all'inizio. Sì. Allora, io dico che la notizia è il ritorno di Adriano Celentano sulla scena, nel senso che è tornato ieri sera a Genova, ha partecipato a un evento a Pra per raccogliere un evento musicale o con ospiti, anche Beppe Grillo. Sì, perché è uscito il suo disco, tra l'altro, adesso. È uscito il disco nuovo di Adriano Celentano. Anche il disco e niente, ha partecipato a questo evento per raccogliere fondi per gli alluvionati che sono stati a Genova, certo, insomma, nello scorso mese. Grazie Alessio, grazie, buona domenica. Niente. Ciao, grazie. Ciao, Giampiero da Varese, buongiorno. Buongiorno. Eccoci Giampiero, abbiamo 300 euro sul tavolo in questo momento. Ma io l'ultimo indizio mi ha cambiato completamente la mia prima ipotesi. Guarda quindi... che l'ultimo indizio aiuta tanto, Infatti, secondo me... Aspetta, non ascolti nessun altro indizio? No, direi di no. Eccoli qua, allora, i 3 indizi scoperti fino a questo momento. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Su quello scoglio immaginato un fiore. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Azzurro, Paolo Conte, Fiore di Maggio, Fabio Concato, spada nel cuore, Little Tony. Eccoli qua i 3 indizi, Giampiero. Allora, secondo me è Valentina Vezzali, che qualche giorno fa ha avuto quel terribile incidente automobilistico mentre si stava recando per iniziare praticamente la preparazione per i campionati. Grazie Giampiero, ciao, buona domenica. Okay. Ciao, ciao, grazie. Roberto da Milano. Pronto? Eccoci Roberto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, 300 euro, qualche risposta data? Sì, avevo in mente qualcos'altro, ma mi hanno anticipato. Se, per sentire un altro indizio? Basta sentire un altro indizio. Siamo al quarto indizio. Il quarto indizio è una canzone di Francesco Guccini, però nella versione forse più conosciuta, che è quella dei Nomadi, Canzone per un'amica, così si intitola. Allora, Roberto, siamo a 200 euro. Non ho idea. Non lo so, magari questa Italia che è in crisi, la Francia che ci attacca. Ah, perché è crisi, sì, c'è l'euro, è vero, sì. Voglio far uscire anche dall'euro, magari. Ma chi lo sa. Allora, grazie Roberto, buona giornata. Grazie, ciao. Buona giornata. Intanto vi ricordo che mancano, credo, 3 minuti, è una cosa del genere. Francesco da Cagliari, buongiorno. Buongiorno Stefano. Ciao Francesco. Ciao. Diciamo così, io ho un'idea dal primo indizio e... seguo e cambio completamente, diciamo così. Cioè, avevi un'idea, però è buttata via, quello stai per dire. Non l'ho buttata via. Dico quello, anche se non, forse non coincide più con gli altri indizi, ed è un personaggio. Aspetta. Lucio Magri. Ah, beh, l'hai detto, Lucio Magri. Va bene. Scusami. No, fa niente, perché volevo far ascoltare gli 4 indizi, ma non importa. Lucio Magri, grazie Francesco. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Luisa da Firenze. Pronto? Ciao Luisa, buongiorno. Buongiorno. Ci sono 200 euro qua, abbiamo 1000, ma no, sono scesi. Cosa vogliamo fare? Io rimango sulla prima presupposizione. Aspetta Luisa, allora aspetta che sentiamo i 4 indizi che abbiamo scoperto. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Su quello scoglio immaginato un fiore. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Quando la macchina uscita di lato e sopra un'altra è finita. Eccoci Luisa, i 4 indizi: Azzurro, Paolo Conti, Fiore di Maggio con Cato, Spada nel cuore Little Tony, La canzone per un'amica, I Nomadi. Mi ha spezzato l'ultimo indizio. Comunque io avevo pensato a campionati europei di calcio, gli azzurri avranno la Spagna contro per prima squadra. Sì, stati estratti. Grazie Luisa, grazie, buona giornata. Raffaella da Roma. Sì, pronto. Ciao Raffaella, siamo buongiorno. A 200 euro ancora. Proviamo. Alessio mi ha bruciato una delle possibilità, quindi resto sulla prima, ma non senza aver costruito un filo logico sugli indizi. E dico l'incontro di Monti con gli enti locali. Grazie Raffaella, buona giornata. A voi, altrettanto. Ciao. Giuseppe da Napoli. Buongiorno. Ciao, buona Giuseppe. Domenica. Grazie anche a te. Allora, Giuseppe. Io avevo pensato il rapporto tra Berlusconi e Bossi, che in questo momento non è buono, ma entrambi non riescono a fare meno l'uno dell'altro. Senti, quali sono i personaggi del presepe napoletano nuovi? Li hai visti qualcuno? Ci sarà Monti, immagino, anche, no? Sì, penso di sì, però in questo momento non l'hai visto ancora. Ecco, sono curioso, adesso vedremo un po' di servizi con i personaggi aggiunti, diciamo così, all'ultimo minuto, come ormai cioè, spesso accade. Infatti per quello che dicevo. Grazie Giuseppe, ciao, buona giornata. Ciao. Abbiamo l'ultima telefonata, Pierangelo da Verona. Pronto? Ciao, ciao Pierangelo, buongiorno. Siamo a 200 euro e tu sei l'ultimo. Sì, infatti, arrivo buon ultimo. Niente, io avevo pensato, poi non so se è già stato detto, l'ENAV e Guarguaglini. Pierangelo, sai che no? Mi dispiace. Vabbè. Ciao Pierangelo. Ciao. Certo, sarete curiosi di capire se per caso qualcuno si fosse riuscito a portare a casa dei soldi, e quanti magari. E infatti, sì. Azzurro. Eccolo lì. Chi, direte voi? È Giampiero il nostro vincitore da Varese. Ciao Giampiero. Sì, ciao. Ciao, complimenti, è vero, l'incidente stradale che ha colpito Valentina Vezzali, grazie al cielo non è successo niente, non era drammatico come la quarta canzone, la canzone per un'amica dei Nomadi, che purtroppo è drammatica, ma comunque racconta di un incidente, spada nel cuore, lo sappiamo, perché lei è la regina del fioretto, fiore di maggio perché fiore, e azzurro perché lei è la nazionale azzurra di scherma e di fioretto. Ma Giampiero, una domanda, al quale indizio ti ha aiutato di più? Già dal primo oppure più avanti? No, per dire la verità, il primo indizio ero completamente fuori perché pensavo ad Antonio Conte. E poi, certo, e poi cos'è che ti ha aiutato? È un doppio indizio il primo, poi sì, quando è arrivato il discorso della spada... Basta, il terzo indizio, quindi vabbè, allora 200, purtroppo un indizio in più per te, 200 euro comunque ti porti a casa da spendere su libreriarizzoli.it, grazie, ciao. Ok, ciao. Grazie a tutti come sempre, Giorgio De Luca redazione, Stefania Tagliaferri in assistenza, Paolo Corleoni in regia, grazie a voi come sempre per l'ascolto, guardate la pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero, io vi aspetto domenica prossima alle 10, ciao!